24 mattino. Buongiorno, buongiorno da Giulia Crivelli. Prima di tutto un saluto, un abbraccio ad Alessandro Milan che tornerà lunedì, come chiedono molti ascoltatori. Oggi abbiamo due ospiti, Carla Rocchi, presidente dell'ENPA, l'Ente Nazionale della Protezione Animali, e Carlo Rienzi, che è presidente del Codacons. La prima domanda la farò su Roma, è inevitabile, e poi forse però è più interessante passare ad altro, non perché il futuro della Giunta Raggi non sia importante, ma perché è stato detto e scritto di tutto e molto sarà ancora detto e scritto, lo vedremo anche poi nella rassegna stampa. La mia impressione è che sia meglio magari prendersi una breve pausa e far prendere una pausa agli ascoltatori, almeno in questa mezz'oretta. E a Carla Ruocco chiedo quindi prima di tutto un'impressione, una previsione su quello che succederà, oltre a darle il buongiorno, però prima ancora, visto che questa questione della giunta è l'ultima novità, è stato il comizio dei 5 Stelle ieri a Nettuno vicino a Roma, sentiamo un brevissimo passaggio di Grillo che è intervenuto, un intervento molto accorato ieri dal palco di Nettuno. Peter Vescafè ha avuto un attimo di esitazione, ma ora parte Grillo. E voglio dirvi una cosa, in che situazione è oggi Virginia? È nella stessa situazione del primo sindaco negro nel 1968 nel Mississippi. Hai capito? Allora, era impossibile che i negri potessero andare e integrarsi con i bianchi. Bene, l'impossibile non c'è. Ecco, già la parola negro un po' disturba, ma suppongo sia stata scelta di proposito. E Carla Ruocco, appunto, buongiorno, e a te chiedo subito un'impressione, una previsione, anche perché poi tu sei di Roma, abiti a Roma, su quello che secondo te succederà, se è possibile, se ti senti di farla. Ma secondo me, se vogliamo dare un'idea di minima, l'idea è non succede niente, trovano un aggiustamento e vanno avanti così. Ma secondo me invece c'è dietro una strategia, oppure è nata dopo. I grillini sanno che non hanno perso molto consenso, hanno perso soltanto il 3%. Perché? Perché la gente non vuole credere, chi li ha votati naturalmente, non vuole credere che sia una responsabilità loro tutto questo manicomio che vediamo, vuole pensare che ci sia un complotto e quindi li può continuare a votare. Secondo me chi ha intenzione di candidarsi a sindaco di Roma lavora per questo ed è in casa loro. Mm-hmm. Quindi io non escluderei che in tempi brevi ci potesse essere un logoramento di nervi della Raggi e una riproposizione. Può sembrare fantascienza, ma mica tanto. Ecco, magari sentiamo un altro pezzo di Grillo, perché l'impressione appunto, però, come dici anche tu, c'è una lettura superficiale, poi si può invece cercare di capire cosa sta succedendo dietro le quinte, perché una delle cose che ha dato l'impressione di voler fare Grillo è ricompattare, ha abbracciato tutti, ha fatto in modo che tutti facessero dei gesti di pace l'uno verso l'altro, e poi ha proseguito nel suo, possiamo anche dirlo, adesso arriveranno valanghe di SMS e WhatsApp di critica, però è stato veramente un Grillo che ricorda quello dei suoi spettacoli comici migliori. Sentiamo questo passaggio. So una cosa, che la reazione di questo sistema a noi è una cosa bellissima che sentiamo sulla pelle. È poca, io mi aspettavo molto di più, molto di più. Aspettavo un avviso di garanzia a me, aspettavo 5 kg di cocaina nella macchina, aspettavo che lui scoprissero finalmente che è un omosessuale. Allora, non ci sarebbe niente di male per davanti di lui. Allora, ma queste cose che lui, l'SMS, non avete detto allora e siete in crisi, la cosa è una meraviglia. Ecco, ci mancava anche la parte decisamente non politically correct, non che il politically correct sia un obbligo o debba per forza esserci, però la parte sulla battuta sugli omosessuali, come se appunto fosse l'accusa peggiore, quella di accusare di qualcuno di essere omosessuale. E comunque questo era un'altra, poi l'intervento di Grillo è durato molto. Ma appunto allora chiedo anche a Carlo Rienzi un po' la stessa cosa, se si sente di fare una lettura, una prima lettura di quello che abbiamo visto succedere nei giorni scorsi. Oggi naturalmente avremo altre notizie, poi c'è il video di Virginia Raggi visto da non so quanti milioni di persone in poche ore, quindi sicuramente oggi avremo degli aggiornamenti. Ma io credo che le chiacchiere stanno a zero, scusate se sono un po' brutale, i cittadini non vogliono entrare in queste polemiche politiche dentro e fuori i 5 Stelle. la città è bloccata. Mm-hmm. Se si telefona all'AMA per buttare un televisore vecchio, ti dicono che se ne parlerà a gennaio perché adesso non si capisce niente. Perché? Perché l'articolo 107 del testo unico degli enti locali prevede che ci sia la direzione politica degli assessori sugli uffici. Allora che succede? Che questi non ci sono perché non c'è la giunta ancora completa. Uno non si sa se va via o non va via, adesso rimane. I dirigenti sono i responsabili, per cui faccio due esempi per far capire ai cittadini due cose che noi avevamo chiesto come associazione, cioè di limitare per esempio le sale di gioco d'azzardo, slot a Roma, con una regolamentazione come ha fatto il sindaco di Napoli proprio in questi giorni, avendo ragione anche al TAR. E ci risponde una dirigente, una certa Sari, che adesso vedo che diventerà forse vice capo di gabinetto, ma noi siamo ovviamente contrari, che dice no, ma il comune non può fare niente perché può fare solo la questura, può dare autorizzazione. Ma se per, nella campagna elettorale hanno detto che erano contro il gioco d'azzardo, contro le sale slot, è chiaro che però non essendoci un sindaco effettivamente in funzione, non essendoci un assessore o la giunta che funziona come dovrebbe, ogni dirigente va per conto suo. Lo stesso avviene per esempio col comandante dei vigili urbani. Abbiamo chiesto, ci fai sapere tutti i partiti che hanno imbrattato i muri di Roma con le elezioni? Mm-hmm. Ha detto no, è un segreto, non si può dire. Ma è possibile che la Raggi queste cose e gli assessori competenti non intervengano? Quindi, sì, perché stanno litigando e stanno giocando con la città, con tutta questa questione intricatissima che non sappiamo bene dove andrà a finire. Tra l'altro si potrebbe anche fare il confronto, poi lo vedremo anche nella rassegna stampa, invece con Torino, perché lì il sindaco di Torino, brava, del Movimento 5 Stelle ha proprio preso in mano una serie di cose molto pratiche. Leggevo anche per esempio le mense delle scuole, quindi ha proprio fatto un po' il contrario. Forse sicuramente la situazione di Torino è diversa, però c'è proprio un approccio, appunto, da una parte sbloccare quello che c'è da bloccare e invece a Roma lasciare bloccato quello che è già bloccato, anzi addirittura aggiungere problemi. Se siete d'accordo, però, appunto, magari farei un salto in altri argomenti, perché poi immagino che Carlo Rienzi potrebbe fare tantissimi altri esempi dei problemi che hanno i cittadini a Roma. Però volevo riprendere un po' il tema del terremoto. Sono passate poco più di 2 settimane e, come ho detto anche ieri, solo o già è un po' sparito dalle prime pagine dei giornali. A Carla Rocchi volevo chiedere proprio qual è stato il ruolo dell'ENPA. Abbiamo letto tante notizie, sia nella gestione dei cani che hanno aiutato a trovare persone vive o purtroppo magari non più vive sotto le macerie, sia anche invece nel salvare gli animali che erano rimasti sotto le macerie. Ma guarda, noi abbiamo fatto quello che facciamo di solito quando c'è un problema di qualunque tipo, e quindi siamo andati sul posto, eravamo già sul posto lo stesso giorno con quello di cui disponiamo, cioè le ambulanze, le automediche, i nostri veterinari, abbiamo piantato la nostra tenda, il presidio, e abbiamo cominciato a lavorare e abbiamo salvato quasi 1000 animali e non è morto neanche uno di quelli che ci sono arrivati o che abbiamo trovato noi, diciamo, sulla zona del terremoto. La ricerca delle persone è affidata alla Polizia di Stato, ai cani della Polizia di Stato o comunque ai cani istituzionali, li abbiamo curati perché molto spesso i cani per scavare nelle macerie, certo, si sono feriti, quindi il bilancio è, diciamo, nella tragedia è molto positivo perché abbiamo fatto, ci siamo ancora, in questo momento in cui le parlo noi ci siamo ancora, quello che la ricompensa sono stati i ricongiungimenti che sono stati veramente struggenti, toccanti, più di tutti quello della cagnetta Lola, questa è una famiglia che è scomparsa, mm-hmm, cioè il capofamiglia ha perso la moglie e le figlie e questa cagnolina si è trovata perché una delle sue bambine l'aveva difesa abbracciandola, insomma ha consentito che vivesse. Questo signore aveva perso le tracce di questa cagnolina, non si trovava e la cercava perché, come dice lui, con semplicità ma anche con verità è l'ultimo affetto che mi resta della mia famiglia, quindi certo, per noi già questo solo fatto giustifica la nostra presenza sul posto. Speriamo di non dover mai più essere chiamati per una cosa di questo genere, ma vista la assoluta e criminale assenza dello Stato sulla messa in sicurezza degli edifici, certo, è una cosa che potrebbe ripetersi, ma certo, da questo dovrebbe venire una lezione. Io mi auguro che per una volta le persone responsabili della mancata messa in sicurezza degli edifici di quella zona paghino salatissimo, perché finora nessuno ha pagato mai niente per le vittime dei terremoti. E con questo appunto chiedo anche a Carlo Rienzi, perché ho visto che voi avete presentato una class action contro il comune dell'Aquila e tutto sommato è il terremoto a cui fare riferimento, perché sì, c'è stato quello del 2012 in Emilia, però quello gravissimo con un bilancio di morti e sfollati altissimo è quello dell'Aquila del 2009, e voi avete appunto fatto una class action per un mancato intervento negli alloggi del progetto, del cosiddetto progetto case. È una, quindi lo abbiamo sentito dire in tutte le salse, lo ha detto appena adesso anche Carla Ruocco, cioè il problema è non fare, non dar seguito a tutti i proclami che si fanno nelle ore, nei giorni immediatamente successivi al terremoto, visto che il nostro paese è un paese ad elevatissimo rischio sismico. Quindi appunto volevo chiedere a Carlo Rienzi se secondo lui forse questa volta è cambiato qualcosa, e comunque se lo strumento della class action, che è abbastanza nuovo per l'Italia, può funzionare in questi casi. Ma guardate, i terremoti, le inondazioni sono delle cose terrificanti, terribili. E si comincia subito a promettere mille cose, tutti promettono. Adesso lì all'Aquila, come sapete, noi stiamo raccogliendo tutti i cittadini per fare questa azione, perché non sono stati messi i contacalorie in ogni alloggio, e questo crea un gravissimo danno nonostante fosse previsto proprio dalla legge, e questa è una questione. Per quello attuale, purtroppo, siamo molto preoccupati, perché addirittura io ieri vedevo, ci sono dei manifesti per strada che dicono raccogliamo fondi per il terremoto. Cioè abbiamo circa 150 enti, soggetti anche sconosciuti, strani, che approfittano della grande generosità degli italiani per raccogliere fondi. Noi abbiamo dovuto mandare adesso una diffida al Ministro degli Interni, a tutti questi enti, perché la legge vieta le collette. Allora il numero cui mandare i soldi è quello della protezione civile, cioè la protezione civile dà garanzie, ma non si può raccogliere soldi dicendo adesso mandate i soldi, poi vi diremo con quali criteri e a chi daremo i soldi. Per l'inondazione della Sardegna, ancora in alcuni comuni i soldi sono nelle casse del comune e stanno lì a rendere floridi gli amministratori, cioè non si possono raccogliere i fondi dicendo poi vedremo cosa farci e tutti generosamente danno. Quindi basta con queste raccolte, con queste collette. Il ministro deve intervenire, perché sono vietate, e deve fare in modo che tutto venga, ma chi vuole sollecitare un suo settore, i suoi iscritti, eccetera, lo può fare dicendo allora mandate i soldi alla protezione civile, vi aiutiamo, collaboriamo, siamo con voi, eccetera. Ma non che tutti questi enti, questi soggetti strani si mettano a raccogliere soldi, devo dire anche le reti televisive, i giornali quotidiani, per carità, sicuramente non saranno rubati quei soldi, ma che senso ha dire, come fa Mentana al telegiornale, sì, a presto vi potremo dire come impiegheremo, sì, i vostri soldi. Ieri sera detto, i soldi si devono dire prima come saranno ieri impiegati. Sera detto, cioè, infatti, che per sono fare quasi una scuola, per fare questa scuola, per fare questo ospedale, per fare questa cosa, eccetera. Sì, eccetera. Si potrebbe però magari pensare che non avevano idea, almeno così ha detto Mentana ieri, che la raccolta sarebbe arrivata a 5 milioni. Volevo chiedere a Carlo Rienzi se ha avuto una risposta su queste, avendo sollevato questo problema, e poi a Carla Rocchi, perché prima ho sbagliato il suo nome, ma io purtroppo ho chiamato Lorenzo Cremonesi anziché Nespoli, ho un po' un problema con i nomi, mi scuso comunque. Quindi Carla Rocchi, come mi segnala un attentissimo ascoltatore via WhatsApp. E invece appunto volevo chiedere da una parte a Rienzi se ha avuto una risposta, e a Carla Rocchi se invece loro sul fronte della raccolta dei fondi hanno avuto delle offerte da tutta Italia per sostenere il loro tipo di lavoro, cioè per gli animali. Per quanto riguarda noi, le risposte noi non le aspettiamo mai. Adesso stiamo chiedendo il sequestro di questi fondi e la consegna alla protezione civile. Questa è l'unica cosa che si può fare. E certamente non vogliamo frenare la generosità, ma vogliamo garantire, certo, che non come è stato in passato, poi hanno arrestato anche persone in passato, sapete, enti, soggetti, eccetera, che non si sa cosa facevano dei soldi, ma che la generosità non vada a finire nelle tasche dei privati, certo, punto. Invece Carla, per la vostra, sicuramente avete anche voi avuto manifestazioni di generosità per sostenere il vostro lavoro? Ma sa, le persone ci conoscono, quando noi siamo potuti partire all'immediato per la zona del terremoto, adesso come prima per l'Aquila e ancora per l'Emilia Romagna, perché le persone, avendo fiducia, ci danno il 5 per 1000, per esempio, e quindi noi lo utilizziamo per questo. Loro vedono dove sono i loro soldi, vedono che stanno nelle ambulanze, che stanno nei furgoni, che stanno nei medicinali, nei medici, e quindi i nostri progetti sono a monte. le persone quando ci danno qualcosa, quando ci danno la loro generosità, sanno che la mettono in mani sicure, perché noi diamo un rendiconto pubblico di ogni euro entrato. E quindi a questo punto scatta la fiducia, e quando c'è la fiducia, certo, confortata dai fatti e poi dall'iniziativa, le cose sono chiare. Certo, quando invece chiunque si mette su piazza chiedendo, per dire, faremo, allora scatta un altro tipo di discorso. Però non ci dimentichiamo che il faremo è una cosa anche delle istituzioni. Oggi, se noi chiediamo alle istituzioni che cosa faranno nelle zone del terremoto, noi sappiamo dove stiamo, certo, mettendo le nostre risorse, il resto, ma loro sono, non lo sanno, annunci. E quindi è una sorta di fiducia, come posso dire, alla cieca, pure nelle istituzioni. Che ma molto comunque diverso. Se vanno, certo, allo Stato, almeno restano ai cittadini. Non sì, so se mi spiego. Restano, adesso sì, voi sono fate, raccoglietevelo che vi pare, sentite, lo facciamo per la nostra associazione, per i fini che svolgiamo tutti da 100 anni, va bene, uno lo dà perché sa che voi fate le cose buone, ma chi dice dateci i soldi per i terremotati, se non è lo Stato, dove perlomeno se poi vanno male vanno a finire comunque i cittadini, il privato, ma chi garantisce che poi quei soldi veramente andranno ai terremotati? Non c'è dubbio, però gli ultimi soldi, parliamo della regione in cui stiamo, nella nostra regione, i soldi che sono arrivati dell'ultimo terremoto, e voglio dire, lasciamo perdere, va, perché sennò diciamo cose che non stanno. Fermiamoci solo un attimo per la pausa sul traffico, e poi riprendiamo magari un attimo questo tema del avere fiducia negli enti o anche nello Stato, perché poi la fiducia è dura da conquistare, ma si può perdere molto velocemente, e quindi ancora più dura da riconquistare. La pausa per il traffico. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna, Asiago, 8-11 settembre. Vi presenta "24 Mattino". Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, siamo in collegamento con Carla Rocchi, presidente nazionale dell'ENPA, e Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Abbiamo toccato il tema del terremoto, prendendolo dalla parte delle generosità degli italiani, che stanno mandando in molti modi diversi il loro aiuto, piccolo, medio, grande, comunque dimostrando proprio con un aiuto economico che vogliono aiutare, che vogliono essere parte dell'opera di ricostruzione. E molti ascoltatori ci scrivono che sono d'accordo con quello che dicevano, con quello che diceva Carla Rocchi, cioè capire anche quando i soldi vanno, per esempio, alla protezione civile, la raccolta fondi, l'unica raccolta fondi che secondo Carlo Rienzi vale la pena di sostenere, e anche quando è appunto un volto dello Stato, poi si scopre a posteriori, a distanza di anni, sta succedendo per l'Aquila, che i soldi non sono andati per la ricostruzione, sono stati spesi in altro modo, o peggio, ci sono state delle malversazioni, se non delle vere propri episodi di corruzione. Quindi magari, se Carlo Rienzi vuole rispondere a Carla Rocchi, che appunto diceva non basta che ci sia un'etichetta protezione civile, purtroppo la storia recente ci dimostra che non è una sicurezza. È sicuramente giusto, e non è che la fiducia nel pubblico sia maggiore di quella del privato, ma il pubblico può essere controllato. Cioè, mentre io non posso chiedere a uno di questi enti privati, nemmeno alla RAI o alla SET o al Corriere della Sera, che cosa ha fatto dei soldi e chiedere la giustificazione euro per euro, questo posso farlo per lo Stato, e se le cose non vanno bene posso mandarli in galera se ci riesco. Per quegli altri invece mi possono rispondere, sono fatti nostri, perché siamo un'associazione privata e nemmeno si applica la legge sulla trasparenza della 241. Non so se mi spiego, quindi questo è il problema, la possibilità di controllare. Certo. L'ideale sarebbe naturalmente che sia il pubblico che il privato avesse un controllore, che dovrebbe essere il Ministero degli Interni, che desse poi conto del fatto che quei soldi sono stati effettivamente spesi. Allora, anche un privato, se fa una convenzione, che ne so, con l'ANAC di Cantone, e dice io raccolgo i soldi e poi tu controlli quello che ne faccio, le cose funzionano meglio. Certo. Ma francamente, però, che sta l'ordine dei chimici o dei cose, eccetera, che raccoglie i soldi, si possa fare le cose senza dire come le fa, dove vanno a finire i soldi, a noi non ci sta bene. Ecco, però prima Carlo Rienzi ha detto noi chiediamo un sacco, facciamo un sacco di domande e però non ci aspettiamo mai una risposta, quindi sicuramente potremmo anche dire in un paese normale questa sarebbe la procedura più giusta, poi però appunto le risposte dello Stato latitano. Magari comunque ci scrivono alcuni ascoltatori, per esempio l'Associazione dei Presidi con le Acli che dice abbiamo consegneremo direttamente il 14 di settembre alla preside di Amatrice 30.000 euro raccolti, quindi per appunto per, in questo caso probabilmente da destinare alla ricostruzione della scuola. Ecco, se... magari la ricostruzione della scuola, ma la preside non può fare la ricostruzione, siamo attenti, scusate, ecco. Vedete come ho ragione, cioè che significa dare 30.000 euro alla preside? La preside non ha competenza sulla scuola, non può ricostruirla, non può utilizzare i fondi per quel fine, ma chi è la preside? Nome, cognome, che cosa ci farà la preside? Queste sono cose folli, assurde. Ma magari succederà, adesso io veramente voglio dare tutta la buona fede possibile, però ha ragione anche Carla Rocchi quando dice, visto che proprio la scuola di Amatrice è uno degli edifici che avrebbe dovuto essere comunque abbastanza antisismico, invece è crollato miseramente, forse proprio sulle scuole bisogna fare più attenzione. Ma sai, è lo Stato, è giusta la linea che i soldi debbano andare allo Stato, perché lo Stato dovrebbe dare conto, ma noi ricordiamoci che la scuola di Amatrice ha avuto dei fondi, c'è un'inchiesta, e certo, se questi fondi fossero stati spesi bene la scuola non sarebbe crollata, se fossimo stati in tempi di scuola aperta e di giorno sarebbe venuta giù in testa ai bambini. Il vero problema è questi soldi, non sono, allora c'è un cretino che ha fatto il progetto o c'è un ladro, certo, o ci sono più cretini o più ladri, e finché noi non vedremo una persona presa, messa in galera e buttata la chiave, in questo paese a tutti farà comodo pensare che c'è una buona raccolta, che siamo tutti buoni, siamo tutti di buon cuore, ognuno ha fatto il suo. Manca la parte repressiva. Chi ha messo in sicurezza e non l'ha, chi doveva mettere in sicurezza e non l'ha fatto, la scuola di Amatrice, deve essere trovato, deve essere condannato, ma in tempi normali, non in tempi biblici, perché altrimenti non ci sarà, quando non c'è sanzione, non c'è nemmeno, senza una sanzione non c'è nemmeno un'idea di civiltà. No, certo, una persona può far questo e fai passarla lì, a uno o più persone. Questo è il vero, ferita dei nostri rapporti sociali. Questione della certezza della pena, più che di quanto è dura la pena sulla carta. E tra l'altro per completezza ci ha riscritto l'ascoltatore che appunto ha raccolto questi 30.000 euro per conto dell'Associazione dei Presidi e dice andranno nel bilancio della scuola per comprare materiali didattici, quindi non per ricostruire, o quello viene implicitamente lasciato appunto a chi si spera lo farà bene e in modo efficiente, non sprecando denaro pubblico. Abbiamo ancora solo qualche minuto, volevo chiedere per cambiare un pochino argomento e partendo da Carla Rocchi, ieri ho trovato due notizie, una dell'iniziativa Qua la Zampa del Gaslini di Genova che avvierà proprio questo programma di pet therapy, è uno dei più grandi ospedali di Genova, e invece in un paese che si chiama Brentonico in provincia di Trento è stato tolto il divieto a far entrare cani e gatti nelle biblioteche perché, dice il presidente della biblioteca, ci siamo resi conto che tanti visitatori dovevano lasciarli fuori e non era bello. Quindi volevo capire se sta cambiando qualcosa, se sono piccoli segnali casualmente arrivati negli stessi giorni o se appunto sta un po' cambiando. E invece a Carlo Rienzi volevo chiedere se nel confronto con l'Europa, anche dal punto di vista suo dei consumatori, su questi temi siamo allineati o come pare a me un po' indietro? Ma devo dire che ci si sta accorgendo sempre in maniera sempre più ampliata che gli animali sono una risorsa. Certo. Gli animali sono una risorsa negli ospedali, ormai si sa da tempo, sono una risorsa nelle case di riposo dove li cominciano a far entrare, e sono una risorsa appunto nelle biblioteche. Si è visto che per esempio in America, dove per certi versi, ma non per tutti, sono più avanti, e le società consentono di portarsi il cane nel posto di lavoro. E sì, quindi è una situazione per cui gli animali vengono considerati per quello che sono, una risorsa e non un problema. E devo dire che la sensibilità da questo punto di vista cresce. Concludo soltanto con una notazione. Fino a pochi anni fa i cani non andavano in treno, per far salire un cane ci voleva la, certo, mano di Dio. Quando c'è stata la concorrenza tra Italia e Ferrovie dello Stato,